Dialogo 33esimo. Raccontò Abu Huraira: l'apostolo di Allah si fermò vicino a un gruppo di uomini seduti e domandò loro: volete che vi dica in che cosa si differenzia il migliore di voi dal peggiore di voi? Quelli del gruppo non risposero ed egli ripeté la domanda 3 volte. Alla fine uno del gruppo disse: e va bene, o apostolo di Allah, dici in che cosa si differenzia il migliore di noi dal peggiore di noi. Allora egli disse, che Allah lo benedica e la abbia in gloria: il migliore di voi è colui dal quale non si spera che bene e dal quale non si teme alcun male, mentre il peggiore di voi è colui dal quale non ci si aspetta niente di buono e dalla malvagità del quale non si è al sicuro.